Non c'è niente di più bello di un raggio di sole, soprattutto in questi giorni in cui il freddo si fa sentire, come anzi nelle ultime ore le temperature si sono abbassate notevolmente, si prospettano nevicate sulle cime più alte, mi sembra un po' Bernacca ed altri tempi. No, ma questo perché? Perché speriamo che sto raggio di sole resista quanto più è possibile sulla faccia della terra, speriamo che non ce lo facciano poi desiderare un domani. Beh, io ho notato più volte che anche di notte passano questi aerei accoppiati, queste cose accoppiate strane, dice, ma che sono due aerei di linea, ma come sono due aerei di linea, ma come due aerei di linea che lasciano le scie chimiche, ma e poi che cosa combinano? Combinano tanti altri casini questi signori lassù nei cieli, ma non solo nei cieli, ma anche in terra. Beh, anche lì mettono in atto tanti progettini, e ce n'è uno in particolare di cui vogliamo parlarvene questa sera, cari amici in ascolto, con il gruppo Lo Sai, e beh, io ve lo faccio così presentare da Denise, che in questo momento, Denise è una dei fondatori del gruppo Lo Sai, in questo momento è in contatto con noi. Denise, buonasera. Sì, ciao a tutti, buonasera. Ben ritrovata a Radio MPA, Denise. E allora, che cosa ci stanno combinando? Non basta il controllo sul signoraggio, l'economia e altro, hanno messo in atto tante di quelle diavolerie e noi siamo lì passivi, perché passivi fino a un certo punto, però dobbiamo sempre ricordarlo, perché subiamo qui, stando sulla faccia della terra. Ovvio che poi quando arriviamo in radio qualche frecciatina la buttiamo anche noi, però Denise, parlaci del tema centrale di questa sera. Stasera affronteremo un tema che non è molto semplice a livello di spiegazione, infatti fortunatamente abbiamo due grandissimi esperti che ne parleranno veramente bene. Io vi farò una presentazione generale, parleremo del progetto ARP, che è un progetto praticamente che va avanti dal 1992 ed è sotto il Dipartimento della Difesa statunitense, coordinato dalla Marina e dall'Aviazione. ARP è un acronimo di High Frequencies Activa Auroral Research Program, che praticamente viene, tra virgolette, spacciato con delle buone intenzioni, che viene fatto sia per scopi di studio della ionosfera oppure per studi sotto il terreno a chilometri di profondità, ma se uno si informa un po' meglio vediamo che poi così non è alla fine. Infatti ARP, che non è soltanto un unico centro, quando si dice ARP si pensa sempre che ci sia soltanto il centro, quello in Alaska, mentre invece ne abbiamo uno molto vicino a noi, ne avete parlato anche nelle puntate scorse, che è il MUS, che si trova in Sicilia, mentre invece poi abbiamo altre sedi in Norvegia, addirittura a Porto Rico, in Russia, quindi non è un fenomeno, diciamo, isolato. Sono delle, come sono composte? Sono delle colonne di alluminio, per quanto riguarda l'Alaska sono 180 piloni alti 23 metri, ognuno dei quali, su ognuno dei quali si trovano una coppia di antenne per la banda bassa e una per la banda alta, che emanano delle frequenze in pratica. Frequenze che fanno male. Frequenze che fanno tanto male. A parte il fatto del male, interagiscono con la ionosfera, bucano letteralmente la ionosfera, e quindi a me possono anche venire a dire che gli servono per gli studi dell'atmosfera, eccetera, ma in realtà con queste tecniche che diciamo l'inventore è un grandissimo genio, un grandissimo fisico, che è Nikola Tesla, che appunto è stato, dopo che è morto i suoi progetti sono diventati top secret e poi spuntano fuori queste apparecchiature che ricordano molto i suoi studi. Aveva fatto questa arma di difesa, come la chiamava lui, e appunto non serve per lo studio della ionosfera e basta, ma attraverso queste onde che vengono emanate sono capaci di modificazioni climatiche, quindi possono creare alluvioni, spostare uragani, creare nuvole, andando avanti possono creare terremoti. Questo, questo serve per il controllo sulla popolazione mondiale? È più un controllo, più che sulla popolazione, questa cosa qua te la faccio raccontare meglio dall'ultimo ospite di stasera, che è Corrado Penna, e che ti spiegherà molto come influisce anche ARP sul controllo mentale, oltre sul controllo della crosta terrestre, diciamo. Mentre invece io, se sei d'accordo, lascerei la parola a Rosario, che riuscirà a spiegare molto bene e molto precisamente come funziona appunto ARP, e andando nello specifico vedere come funziona sui riscaldatori ionosferici in genere. D'accordo, Denise. Rosario Marcionò ce l'abbiamo già in linea, quindi lo possiamo già salutare. Perfetto. Perché sta ascoltando. Rosario, ciao, buonasera. Rosario. Ciao Denise, grazie. Ciao a tutti, caro. Voi. Ciao, qua. Benvenuto a te. E allora, Rosario, raccontaci un pochino. Ascoltavo Denise che ha ben parlato relativamente ad ARP. Rosario, scusami, ecco, potresti alzare un po' il tono della voce perché si sente molto basso rispetto a Denise. Ok, dicevo, non vorrei ripetermi rispetto a quello che è stato già detto prima. Comunque, una breve descrizione di ARP la possiamo fare. Innanzitutto premetto che come definizione ARP ormai vi è l'accettazione del fatto che abbiamo una stazione con 180 antenne che lavora a Gakona in Alaska e che secondo quanto riferiscono gli organi ufficiali dovrebbe, e il termine poi che adesso andrò a spiegare, dovrebbe indagare sulle reazioni che ha la ionosfera in relazione ad emissioni di onde elettromagnetiche. Questa stazione, diciamo che non è l'unica, quindi bisogna essere precisi su questo, non è l'unica stazione su questo tipo di funzionamento nel mondo. Ve ne sono almeno 5, o almeno ve ne sono 5 ufficialmente, e ve ne sono almeno altre 20 non certificate ufficialmente. In effetti noi sappiamo che nel 2001 la Unione Europea aveva lanciato un allarme rispetto alla pericolosità della stazione ARP, che all'epoca era ancora in assemblamento e non era ancora terminata l'installazione di tutti i piloni a polarizzazione orizzontale. E fatto è che dopo vi fu il silenzio assoluto. Perché vi fu il silenzio assoluto? Perché anche l'Europa si è dotata di una stazione che è basata in Norvegia, che funziona sullo stesso tipo di processo di ARP, quindi si tratta di antenne con polarizzazione orizzontale che sparano nella ionosfera onde ad altissima frequenza, falsate di qualche secondo e leggermente diverse in lunghezza, e in questo modo si ha verso la ionosfera una emissione che provoca lo scuotimento delle molecole e quindi un riscaldamento della stessa ed una sua deformazione, e contestualmente si ha una riflessione verso il basso della risultante di queste due onde sfasate di pochi centesimi di secondo, e questa riflessione verso il basso è appunto una riflessione a bassa frequenza. Quindi in realtà l'inganno sta proprio nella definizione di ARP, che sarebbe, scusate se ve lo leggo perché poi se no mi vado a confondere e quindi ve lo dico subito, dunque sarebbe, la sigla sarebbe High Frequency Active Auroral Research Program, che sarebbe programma aurorale per la ricerca delle alte frequenze, e nel nome stesso c'è l'inganno, perché è vero che vengono emesse delle alte frequenze, ma verso terra, quindi vengono riflesse delle frequenze bassissime. Diciamo che se per esempio verso il basso vengono emesse delle frequenze di 3-4 Hz, queste possono benissimo interferire con il funzionamento del cervello umano. Noi sappiamo che per esempio la fase REM è basata sui 4 Hz, la fase REM sarebbe quella fase notturna che ci permette di sognare, e la caratteristica tipica del nostro cervello è quella di sintonizzarsi involontariamente, diciamo così, su frequenze che lo vanno a disturbare. Quindi se volutamente o meno nella nostra bassa atmosfera e quindi verso terra vengono riflesse delle frequenze che sono fuori dalla nostra frequenza base, supponiamo frequenze di 3 Hz, di 6 Hz, di 7, di 8 Hz, a seconda della lunghezza di queste onde a bassa frequenza, si hanno dei comportamenti diversi per l'organismo e per il cervello, quindi si possono avere stati di depressione. Rosario, perdonami, ma la manipolazione, diciamo, i danni, non dico dimostrati perché l'abbiamo detto come prefazione, ma diciamo che quelli che si sospettano più gravi ad oggi, quali sono stati? Gli effetti di ARP, dici, o sulla manipolazione? Sì, sì, con l'ARP. Beh, gli effetti, quelli immediati che si vedono, sono quelli della manipolazione climatica. In effetti gli scienziati hanno osservato che dal momento in cui ARP è entrata in funzione, e parlo del 1994, i fenomeni climatici violenti sono aumentati, come sono aumentati anche quei fenomeni di siccità prolungata in talune zone. Tant'è che, spiegandola così in soldoni, l'emissione di frequenze elevatissime verso la ionosfera ne provoca una deformazione, come dicevo. Questa deformazione a sua volta genera uno spostamento degli strati inferiori dell'atmosfera e provoca uno spostamento potenziale delle correnti a getto, che sono poi quei flussi ad alta quota e ad alta velocità che predispongono il clima sul nostro pianeta. Variando la dimensione e la direzione di queste correnti a getto o jet stream, chiaramente si possono avere degli effetti deleteri sul clima, creare per esempio delle attraverso ARP si possono creare anche delle zone di alta pressione artificiali, che impediscono quindi l'afflusso di perturbazioni, come può essere successo recentemente in Italia, o anche comunque come è successo sia in Russia che negli Stati Uniti. Già che gli Stati Uniti verso la fine degli anni Ottanta avevano notato che alcuni fenomeni violenti climatici negli Stati Uniti avevano a che vedere molto probabilmente con la stazione che era presente in Russia, una stazione che funzionava proprio sul procedimento di ARP e che molti scienziati ritengono aveva provocato lo spostamento delle correnti a getto. Quindi ricordiamo il lunghissimo periodo di siccità in California tra il fine degli anni 80 e la metà degli anni 90, e questo fenomeno di siccità prolungata molti scienziati ritengono sia dovuto alle attività delle stazioni simili ARP in Russia. Quindi una unione di tutte queste stazioni che vengono cosiddette riscaldatori ionosferici provoca un riscaldamento dell'atmosfera, quindi provoca contestualmente la distruzione delle formazioni nuvolose, che vengono prima innalzate verso l'alto e poi vengono dissolte proprio a causa di questo riscaldamento dell'atmosfera, e quindi provocano di per sé uno sconvolgimento dei flussi climatici naturali. Quindi in Russia abbiamo avuto episodi di stati roventi con incendi che non terminavano mai. Stessa cosa succede negli Stati Uniti. La dottoressa Peterson, che è un'agronoma che si occupa di questo argomento da una ventina di anni, ha dichiarato più volte che la contaminazione delle foreste per via della irrorazione tramite chemtrails di prodotti tipo il biossido di zolfo provoca incendi che non si riesce neanche a spegnere. E la stessa cosa è successa in Russia, la stessa cosa è accaduta in Italia tra il 2007 e il 2008. Rosario, perdonami, ma controllo a questo punto che cosa significa? Terrore, paura tra la gente o qualche altro progetto? Esperimenti, che altro? Il progetto militare On in the Weather, possedere il clima è un'arma, è un potenziamento, ecco, delle proprie, quindi un'arma di distruzione di massa, possiamo definirla così? Perché se noi vogliamo ottenere un determinato risultato da una potenza nemica, possiamo metterla in ginocchio attraverso processi climatici estremi, quindi tramite alluvioni oppure tramite siccità o incendi e via dicendo. Quindi facciamo un esempio, Rosario, se io sono non lo so, in Niger oppure l'Italia, io rappresento l'Italia e non vado ad accondiscendere ad alcune cose che mi vengono proposte, io potrei essere anche oggetto di ritorsioni sotto questa forma. Quindi non si parla più del, come si faceva una volta, dei blocchi come si faceva da parte degli Stati Uniti nei riguardi di Cuba, ad esempio, ma oggi si può avere anche quest'arma in più per poter controllare certe imposizioni, quindi dettare queste imposizioni stesse. Non è solo teoria, è pratica. Io non faccio riferimenti, ma se si va indietro con la memoria di un mese e mezzo circa, si può capire che alcuni fenomeni climatici violenti possono essere probabilmente stati indotti per far sì che il governo Berlusconi cadesse. Quindi, questa è una dichiarazione forte, ma abbiamo un supporto che è dato dall'osservazione delle satellitari, già che noi comunque, valutando le operazioni di aerosol che erano intervenute in quel periodo, siamo stati gli unici, la protezione civile non lo fece, e tantomeno la meteorologia ufficiale, a prevedere un fenomeno violento nella Liguria di Levante, nella fattispecie nelle Cinque Terre. Quindi se noi l'abbiamo previsto è perché abbiamo valutato quello che stava accadendo a livello climatico artificiale. Quindi in questo modo si può mettere in ginocchio una nazione, si può far dimettere un governo. Allora a questo punto la memoria mia va un pochino più indietro a cose ancora, con tutto il rispetto purtroppo per le persone che ci hanno rimesso le penne, alle distruzioni che sono avvenute col terremoto in Giappone, oppure allo tsunami. Anche queste possono rientrare in quella tipologia. Sono armi, anche perché non dimentichiamo che ARP ha diverse potenzialità, è una cosiddetta arma esotica, quindi ARP può agire per scannerizzare il sottosuolo, ARP può agire per provocare terremoti, ARP agisce nel cambiamento climatico, agisce attraverso l'emissione di onde a bassissima frequenza sul controllo mentale. Ci sono studi della CIA che hanno ormai una storia di mezzo secolo che lo possono attestare. Sicuramente, se adesso torno indietro un attimo a un articolo che era stato scritto pochi giorni dopo il sisma in Abruzzo, all'Aquila, la NASA uscì con una notizia che diceva, adesso ve la leggo, quindi la notizia ANSA diceva: la NASA scende in campo con un annuncio rivoluzionario sulle previsioni sismiche. Secondo Stuart Hayes, che lavora presso l'agenzia americana, vi sarebbe sempre una stretta correlazione tra i terremoti che superano il quinto grado della scala Richter e particolari perturbazioni che avvengono in un'atmosfera più alta, ovvero la ionosfera. La ionosfera, a caso vuole, è quello strato dell'atmosfera che viene proprio interessato dall'emissione di ARP, proprio perché ha una caratteristica tale che permette la rifrazione e la propagazione delle emissioni radio. Non dimentichiamo che la ionosfera viene usata fin dai tempi di Marconi per riflettere dei segnali oltre la curvatura terrestre, quindi le sue caratteristiche tipiche le permettono proprio di essere sfruttata anche tramite le stazioni ARP. Proseguendo, in pratica queste perturbazioni sono state individuate, dice ancora la notizia, e sono state individuate anticipare sempre un forte terremoto, ed esse si sono manifestate anche pochi giorni prima del sisma cinese. Perturbazioni nella ionosfera si possono verificare quando le faglie terrestri, ossia le fratture, il cui movimento genera i sismi, raggiungono punti di elevato stress e creano correnti interne nella crosta terrestre che possono andare ad interessare l'atmosfera. Queste correnti sono troppo deboli per essere captate vicino alla superficie della Terra, ma in quota, dove anche le più piccole perturbazioni elettriche influenzano le molecole ionizzate dell'alta atmosfera, creano delle alterazioni rilevabili ai satelliti, e questo l'ha spiegato sempre il dottor Ayres. Il ricercatore avrebbe dimostrato che in almeno 11 casi di forti sommovimenti tellurici tali manifestazioni si sarebbero evidenziate da 2 a 4 giorni prima del sisma. Ora, la NASA afferma che ci sono correlazioni tra le perturbazioni nella ionosfera e i sismi, e che quindi attraverso questo studio loro possono prevedere i sismi. Questo però, è terrificante, Rosario, veramente esatto, terrificante. Però è una spiegazione che ha l'altro lato della medaglia, cioè la NASA spiega che può prevedere i terremoti analizzando le perturbazioni nell'ionosfera, ma non dice la NASA che attraverso le emissioni ARP, e noi l'abbiamo potuto rilevare dai grafici che mantengono sotto controllo sempre le perturbazioni nella ionosfera proprio a causa delle emissioni ARP, abbiamo notato che ogni volta che c'è un sisma, se andiamo a guardare il grafico indietro, notiamo che nei 2, 3, 4 giorni precedenti vi è una perturbazione elevatissima nella ionosfera causata dalla stazione ARP a Gacona. Quindi i terremoti, è vero, possono essere previsti attraverso l'analisi delle perturbazioni ionosferiche, ma possono essere anche provocati, e questo non lo dico io, ma lo dice uno scienziato. Facciamo una cosa, Rosario, noi mandiamo la pubblicità. Perfetto, ecco, perché c'è anche il GR che incombe, ormai siamo alle 19.59, così le 20, e dopodiché ritorniamo, quindi resta con noi in trasmissione, stiamo parlando di una cosa molto molto interessante. Era tutto questo su Radio MPA con la nostra Denise, il gruppo Lo Sai, e anche Rosario Marciano, ovviamente facente parte anche egli di questa bella organizzazione no profit, pacifica, apartitica, che ogni mercoledì e quest'oggi in modo eccezionale venerdì è presente qui a Radio MPA. Quindi a tra poco. E Radio MPA per contatti 0828 99 40 70 99 45 02 oppure sul nostro sito www.radiompa.com. E si ritorna in trasmissione su Radio MPA insieme alla presenza telefonica di Denise, fondatrice del gruppo Lo Sai, insieme al nostro Rosario Marcianos. E allora prego, continua pure. Sì, allora parlavo del dottor Brooks Agnew. Il dottor Brooks Agnew studia i raggi ELF da oltre 30 anni ed è convinto che ARP influisce sulla ionosfera, agisce sulla ionosfera influendo sui cambiamenti climatici e potenzialmente potendo provocare anche dei sismi. In realtà lui ha eseguito degli studi e delle verifiche anche in laboratorio che confermano il metodo attraverso cui lavora ARP. Ovvero queste microonde, queste onde ad altissima frequenza che irradiano la ionosfera influiscono, come dicevo, sulle correnti a getto, spostandole e quindi provocando una modificazione del clima a livello globale. Però non dimentichiamo che non sono gli americani gli unici a giocare con questo giocattolone, e infatti ARP è solo uno dei numerosi trasmettitori di onde ELF installati in tutto il mondo. Negli Stati Uniti se ne contano tre, uno a Gacona, vicino a Fairbanks in Alaska, e un altro ad Arecibo in Puerto Rico. La Russia ne ha installato uno a Vasilsursk, nei pressi di Nizhny Novgorod, e l'Unione Europea nei dintorni di Trosmo in Norvegia. Sfruttando un'azione congiunta, questi trasmettitori sono potenzialmente in grado di alterare il clima di qualunque area del pianeta, modificando radicalmente la traiettoria delle correnti a getto, come dicevo, ed innescando temporali catastrofici o tremende siccità. Il riscaldamento dell'atmosfera potrebbe persino cambiare l'epicentro degli uragani e creare delle cupole di alta pressione in grado di deviarne il corso, e in effetti è quello che noi vediamo tutti i giorni. Quando ci viene detto che il riscaldamento globale è dovuto ai cambiamenti climatici, è un discorso tautologico. Cosa significa la temperatura aumenta a causa dei cambiamenti climatici? Non è una spiegazione. In realtà le temperature aumentano per una serie di fattori, non dimentichiamo che le microonde comunque irraggiando all'atmosfera riscaldano, non dimentichiamo che migliaia di aerei che volano a bassa e a media e ad alta quota provocano anch'essi un effetto serra proprio a causa del particolato che diffondono. Quindi è correlato con le scie chimiche, Rosario? Esatto, non dimentichiamo che le cosiddette chemtrails o scie chimiche sono collegate strettamente con le attività dei riscaldatori ionosferici posti, installati in varie parti del mondo, perché senza una simulazione di vari strati di ionosfera, quindi di vari strati simil plasma come la ionosfera, non sarebbe possibile irradiare segnali di qualsiasi tipo a distanza oltre la curvatura della Terra. Con questo sistema, quindi con la dispersione di particolato metallico tossico, cancerogeno, neurotossico, elettroconduttivo ed igroscopico, cioè che asciuga l'umidità atmosferica, le nubi vengono distrutte. Noi vediamo che nelle giornate di alta pressione i cumuli da bel tempo non ci sono più. Vengono adesso specialmente in Italia, dove l'attenzione dei media non ufficiali, ma comunque l'attenzione della gente è maggiore che in altri stati e in altri paesi, le irrorazioni vengono concentrate soprattutto durante la notte, quindi le perturbazioni o comunque le nubi vengono distrutte soprattutto durante la notte, quindi all'alba vediamo gli ultimi passaggi di questi aerei che poi comunque smettono con le loro scie persistenti e lasciano lo spazio ad altre scie di tipo non persistente, sempre a bassa quota. Ma questo perché? Queste operazioni di mantenimento che vengono fatte anche di giorno, perché vengono eseguite? Perché il medium atmosferico deve rimanere a basso livello di umidità e deve rimanere elettroconduttivo, in modo tale che le stazioni poste a terra, e non solo le stazioni ARP, ma anche le cosiddette torri Gwen, che sono delle antenne spacciate spesso per antenne della telefonia, ma che non lo sono, a livello orizzontale sono in grado di trasmettere segnali a lunga percorrenza, superando anche le colline, quindi gli ostacoli tipici che si hanno nell'orografia terrestre, e in questo modo loro hanno la possibilità di ottenere diversi risultati, ovvero non solo la propagazione delle onde per scopi prettamente militari, quindi per i satelliti che funzionano in banda KA nel range delle microonde, tipo il MUOS che sta per essere installato adesso a Niscemi, che è una sorta di stazione ARP di piccole dimensioni, ma anche attraverso potenzialmente il controllo mentale, perché se noi, come dicevo, variamo le frequenze rispetto a quelle che sono le frequenze base del cervello, possiamo indurre dei cambiamenti, tipo la persona che prende e comincia a sparare all'impazzata e poi casualmente, come al solito, si suicida. Non sono casi così di follia pura, o il tipo che si strappa gli occhi, cioè sono cose allucinanti che non si riescono a comprendere a meno che non si rientri nel discorso degli esperimenti MK-Ultra della CIA, che sono andati avanti utilizzando le emissioni ELF, quindi il controllo mentale attraverso l'induzione di onde elettromagnetiche fuori frequenza rispetto a quella che è la frequenza base del cervello. E questi sono aiutati studi che sono stati fatti da diversi scienziati. Rosario, scusami, aiutati in questo anche dall'alluminio, chiaramente, che si insinua nel sistema centrale nervoso degli esseri umani, che viene rilasciato dalle scie. Esatto, l'alluminio, che è un metallo neurotossico, come anche il bario, che viene irrorato soprattutto nell'ambito del progetto RFMP, che è un progetto di mappatura del territorio tridimensionale, sono neurotossici, chiaramente attraverso il sistema circolatorio finiscono nel cervello. Non è un caso se in Francia, attraverso uno studio che è stato eseguito e pubblicato recentemente, dal 1994 ad oggi si è passati da 300.000 casi di pazienti con l'Alzheimer a più di 1 milione, e soprattutto l'Alzheimer, che era definita una malattia ad incidenza di quarta età, quindi dopo gli 80, 85, 90 anni, ci sono casi di ragazzi di 13, 14 anni che sono già malati di Alzheimer. Sono malattie neurotossiche che hanno dimostrato essere causate dall'alluminio, in quanto le analisi post mortem hanno mostrato elevatissimi quantitativi di alluminio nel cervello dei poveri pazienti che sono deceduti. Quindi è chiaro che c'è uno stretto collegamento tra quello che viene dal cielo e le malattie neurotossiche, i tumori. Teniamo conto che per esempio il bario influisce sul sistema muscolare e quindi provoca anche l'infarto, provoca l'ictus e via dicendo. Ci sono le nanoparticelle PM2, PM2.5 che provocano i linfomi non Hodgkin, c'è la cosiddetta bronchiolite costrittiva, che è causata proprio dall'inalazione di nanoparticolato, e se pensiamo che questi aerei non volano, quelli che vediamo noi, a 10-13.000 metri, ma a 2.000 massimo, pensiamo che ogni giorno la ricaduta di particolato, che poi vediamo brillare anche sulle piante, e che quindi ci siamo benissimo respirati, ha degli effetti dannosissimi, letali, a lungo e medio termine anche sulle persone. Effettivamente sono inquietanti queste dichiarazioni, però sono veritiere, sono anche confortate purtroppo, sottolineo purtroppo, dai dati che in aumento di queste malattie mortali, quindi casi di tumore, casi invalidanti. La cosa veramente scandalosa è che a livello nazionale non esiste un rapporto epidemiologico ufficiale, partendo proprio dal 2003, che è l'anno in cui fu firmato l'accordo Italia-USA sui cambiamenti climatici, che permette appunto sperimentazioni attraverso le chemtrails. Non è un caso questo, logicamente, quindi tutti gli studi che ci sono stati fatti da associazioni. Ma Rosario, tipo il protocollo di Kyoto, allora questa è tutta una presa in giro? È una presa in giro, in effetti il riscaldamento climatico da CO2 è una missione di copertura per giustificare i cambiamenti climatici estremi che casualmente gli scienziati, e quindi ripeto non io, hanno osservato essere diventati violenti e molto frequenti proprio dal 94, anno in cui la prima stazione ARP fu messa in funzione a Cancun. Bene Rosario, noi andiamo per le conclusioni e dobbiamo anche dare la voce, il microfono a Corrado Pena tra un pochino, però ecco, noi prima parlavamo di questo, ci stanno controllando, noi ovviamente grazie anche a Radio MPA stiamo dicendo la nostra, la stiamo facendo sentire, e questa è l'importanza, quella di divulgare il messaggio, Rosario, ti pare? Esatto, sì, che il mio telefono sia sotto controllo è indubbio, l'ho verificato. Saluto coloro che hanno ascoltato e speriamo che abbiano fatto buon frutto di quello che abbiamo detto. Ma che soprattutto pensino che gli stessi danni arrecati a noi vengono arrecati anche a loro. Sì, il problema è che queste persone, quindi i negazionisti, che sono tanti, compresi quelli del CICAP, anzi li metterei all'inizio, pensano al beneficio immediato e non pensano ai danni nel lungo termine, quindi non pensano neanche alla salute dei propri figli, e questo è veramente scandaloso. Questo è vero. Che cosa non si farebbe per i soldi, è vero? Esatto. Purtroppo sì. Allora salutiamo, ahimè, purtroppo anche sul tempo, Rosario Marcenò, ringraziandolo di questo intervento bello, grazie, limpido. A voi, saluto anche Corrado, saluto Denise, certo. Saluto tutta la redazione. Ciao Rosario. Grazie, grazie. Ciao. Grazie Rosario, ciao. Ci sentiamo alla prossima. Bene, grazie. E allora alla prossima, ciao, ciao. E grazie anche a te. Grazie, ciao. Grazie, grazie a te Rosario. Noi ovviamente andiamo in musica, Denise resta con noi, tra un pochino avremo Corrado Pena. E ritorniamo in trasmissione alle 20:31, stiamo parlando con il gruppo Lo Sai di questo progetto tremendo. E allora Denise, continua tu sulla scorta di quello che già abbiamo sentito con Rosario Marcenò, e parlaci anche di quello che... insomma, è avvenuto di questa interrogazione parlamentare. Sì, esatto, perché tanti ci fanno domande, ma non è possibile che succeda questo, ma com'è possibile non essere informati su questo? Ma basta andare sul sito del Parlamento Europeo, cercare l'interrogazione parlamentare, una relazione che si chiama A4-0005/99. In pratica è un'interrogazione parlamentare fatta sull'ambiente, la sicurezza e la politica estera, dove se scorrete fino in fondo troverete, la ricerco un attimo, eccolo qua, ARP, un sistema di armamenti con effetti devastanti sul clima. E vi potete leggere, ora io se vuoi te lo leggo anche, ma è un po' lunghetto, quindi inviterei tutti ad informarsi, intanto lo trovate tranquillamente, certo, www.europarl.europa.eu, cercate l'interrogazione parlamentare su ARP e troverete appunto che anche in sede, diciamo, ufficiale è stato parlato di questo progetto come arma e non come, diciamo, studio, come vogliono coprirlo loro per la ionosfera e basta. E infatti. Bene Denise, allora introduciamo, sì, e presentiamo l'altro, assolutamente sì, l'altro amico di questa Corrado Pena, che mi aiuta anche con la pagina di Lo Sai Chem 3, quindi lo presento molto volentieri e ci parlerà di un argomento diciamo un po' particolare, più che particolare vi consiglio di ascoltarlo bene perché è molto interessante. Ci parlerà degli studi del fisico Fran de Aquino, che è un professore brasiliano, e ci farà capire quanto la cosa appunto sia reale e i brevetti di manipolazione mentale. Bene, Corrado, buonasera, ciao, benvenuto a Radio MPA. Buonasera. Ciao, Corrado. Buonasera. Ciao. E allora, e noi siamo desiderosi di ascoltarti, quindi di sentire quello che hai da dirci. Prego. Allora, prima volevo rimarcare una cosa che ha già detto Rosario, di stazioni simili a HAARP ce ne sono diverse, e non solo nell'ambito dell'Alleanza Atlantica, quindi non solo Stati Uniti o Norvegia, ma anche Russia. Se HAARP, quella di Kakona in Alaska, ha una potenza nominale di 3,6 megawatt, quella in Russia, vicina a Novgorod, ha una potenza di 190 megawatt, quindi se qualcuno pensa che siano gli americani cattivi a fare la manipolazione climatica o eventualmente usare come arma questa stazione, i russi hanno anche loro un impianto potente, perfino più potente di quello di Gacona. In Norvegia comunque ce n'è un altro di una potenza nominale di 1000 megawatt, quindi quello norvegese è ancora più forte. Quindi non possiamo mai parlare al singolare, si tratta di diverse stazioni di riscaldatori ionosferici che funzionano in questa maniera, spediscono delle onde ad alta frequenza che riscaldano lo strato D della ionosfera, ma non lo riscaldano a un livello costante, lo riscaldano a intervalli, cioè c'è una variazione di questo segnale, è un segnale ad alta frequenza, ma la variazione di questo segnale avviene a bassa frequenza, e forse è un pochino complicato da comprendere, però praticamente c'è questo segnale ad alta frequenza che si accende, si spegne, si accende e si spegne lentamente. Questo accendersi e spegnersi del segnale ad alta frequenza avviene a una frequenza bassa di qualche megahertz, e guarda caso è la frequenza, sono frequenze simili a quelle del nostro cervello. Il nostro cervello emana onde cerebrali fra 0 e 14 fra 0 e 14 Hz, quindi bassissima frequenza. E appunto questi riscaldatori ionosferici possono indurre delle radiazioni a quelle frequenze, perché questa modulazione del segnale ad alta frequenza fa sì che gli elettroni della ionosfera, in questo stato dell'ionosfera ci sono gli elettroni sui quali viene indotta una corrente, appunto sui pochi Hertz. Quindi questo segnale ad alta frequenza che riscalda alternativamente genera delle correnti a bassa frequenza, e così vengono irradiate delle onde a bassa frequenza, onde che possono interferire col funzionamento cerebrale. Esistono tanti e tanti brevetti, ma anche tanti articoli di giornale che sono inquietanti, perché se li leggiamo di seguito c'è da restare strabiliati. Il quotidiano Telegraph ha scritto un articolo: Intel sta realizzando un computer che legge la mente. Sul quotidiano inglese Guardian si parla di scansione cerebrale che può leggere le intenzioni delle persone. Sul Corriere della Sera abbiamo un articolo: ecco Medusa, l'arma telepatica. Voglio dire, qua non stiamo parlando di fantascienza, ma di studi che vanno avanti da tanto tempo. Ci sono anche dei brevetti addirittura vecchi di 40 anni, e sono brevetti che prevedono appunto l'influenza tramite onde elettromagnetiche sui cervelli. Quindi il nostro sospetto che non solo le stazioni HAARP, ma anche altre antenne nascoste possono servire per manipolare la mente è fondato perché ci sono i brevetti. E se abbiamo dei governi che si stanno avviando a tassare pure le persone più povere pur di far fronte a questo debito costruito artificialmente dal signoraggio e dalle banche, che poi ci troviamo al governo, perché adesso ci troviamo al governo e gli stessi banchieri che creano i debiti o con cui noi siamo indebitati, se vediamo queste cose a livello politico, forse possiamo anche comprendere che per evitare che la gente si ribelli bisogna in qualche modo manipolarle, forse la televisione non basta, forse i mass media non bastano, ci vuole anche qualche altra struttura, come potrebbe essere questa la manipolazione mentale con segnali elettromagnetici. Ora, per quanto riguarda gli studi del fisico Fran de Aquino, questo fisico che forse potrebbe anche meritarsi il premio Nobel per i suoi studi, perché ha tirato fuori, ha scoperto delle equazioni che inglobano quelle di Einstein e parlano anche di gravitazione quantistica. In pratica la quantizzazione, secondo la sua formulazione, secondo le sue equazioni, si può applicare anche allo spazio-tempo. In pratica a livello microscopico non si può suddividere all'infinito nello spazio né il tempo. Questi concetti complicati poi si possono applicare alla, cioè hanno delle applicazioni particolari sulla gravità, nel senso che secondo le sue equazioni è possibile anche diminuire la gravità, realizzare degli schermi gravitazionali, e ci sono effettivamente degli studi, anche c'è un fisico italiano, un danese, che ha fatto uno studio sullo schermo della gravità tramite campi elettromagnetici, e secondo appunto gli studi del fisico Fran De Aquino è possibile in certe condizioni con dei segnali elettromagnetici diminuire la gravità, e questo diminuire la gravità con le frequenze appunto utilizzate da ARP, secondo i suoi calcoli, si riuscirebbe a creare una sorta di mega effetto stantuffo, cioè diminuire la gravità sopra una regione della Terra significa diminuire la pressione al di sopra, è come creare un piccolo risucchio, c'è questa alterazione della pressione che potrebbe causare delle alterazioni macroscopiche fino ad avere un sommovimento del mantello, quindi creare anche dei terremoti. Poi si può anche non credere a questi studi, però sono sicuramente significativi anche perché sono fondati su tutta una serie di altri studi già comprovati e pubblicati su riviste scientifiche ufficiali. Quello che è sicuro è, come diceva anche Rosario, che noi abbiamo visto una costanza fra un particolare tipo di segnale visibile appunto sul sito di ARP e dei successivi terremoti, c'è una particolare attività intensa, poi uno strano buco, una striscia bianca pochi giorni prima del terremoto che forse nasconde qualche attività al di sopra della norma, e abbiamo visto per decine di volte di seguito la stessa situazione verificarsi prima dei terremoti, quindi dire che è tutta una coincidenza è decisamente strano. Senti, ora, a proposito di brevetti, non ci sono solo brevetti sulla manipolazione mentale, ma ci sono anche brevetti militari che coinvolgono da una parte ARP e dall'altra parte le scie chimiche, perché ci sono ad esempio contratti militari per la produzione di proiettili di energia, ci sono studi per utilizzare una atmosfera piena di ioni di bario o di altri metalli per realizzare delle armi al plasma, sono le cose che magari si leggevano sui giornali o si vedevano nei film di fantascienza di qualche anno fa, adesso abbiamo la possibilità anche grazie ad un'atmosfera modificata con l'introduzione di ioni nell'atmosfera, ioni metallici in atmosfera, abbiamo la possibilità di realizzare quelle cose che si vedono nei film, come raggi che abbattono un aereo nemico, per esempio. Abbiamo la possibilità di creare queste avveniristiche armi al plasma. Insomma, una serie di cose. Sul mio sito Scienza Marcia trovate tanti di questi brevetti. Corrado, ti volevo chiedere, ecco, in che modo l'essere umano assorbe questi effetti del sistema ARP? In che modo assorbe? Sì. In modo assorbe? Questa è una domanda veramente un po' complicata. Voglio dire, noi sappiamo che il cervello è sensibile a certe radiazioni, anche perché le radiazioni che possono essere indotte dai riscaldatori ionosferici sono proprio alle frequenze di funzionamento del cervello. Chiaramente, studi precisi sulla correlazione fra un segnale di ARP e il comportamento umano o il comportamento della mente non ci sono, però ci sono tutti questi studi, diciamo, fra virgolette, indiretti, che fanno vedere come ci sono degli enormi progressi nel campo della scienza sull'uso di segnali elettrici per manipolare il cervello, scansione delle onde cerebrali per interpretare l'umore, per interpretare le idee, o addirittura per interpretare le immagini visionate dal cervello. Quindi anche se non abbiamo magari la prova diretta che ARP e altre strutture vengono utilizzate a questi scopi, è possibilissimo, cioè la scienza e perfino gli articoli di giornale, come ho detto prima, ce lo mostrano. Ora, se vediamo come è violenta questa società. Vediamo anche come è indifferente, nel senso c'è ormai un'indifferenza della gente anche rispetto a cose plateali, perché quando si parla con le persone, guarda, al posto delle nuvole ci sono le scie degli aerei, ti sembra normale? E la gente, ma ce l'hai contro il traffico aereo? Ma guarda, passano anche di notte, la gente dice, pensiamo ad altre cose. Vuol dire, di fronte a una situazione tremenda, come le scie di aerei che coprono tutta la superficie terrestre, o quantomeno grandissime zone, intere nazioni contemporaneamente, sia di giorno che di notte, l'indifferenza delle persone è difficilmente comprensibile se non c'è qualcos'altro che le addormenta. Beh, certo, forse sarà anche, può sembrare ai tanti che ci ascoltano difficile da prendere, difficile da credere, come ha detto anche Denise prima, però effettivamente ci sono delle coincidenze. Io dicevo sempre a Denise, stranamente, che quando vedo che passano questi aerei subdoli con queste scie, il giorno dopo c'è una condizione avversa della situazione climatica, quindi è inevitabile che qualcosa vada ad accadere nell'immediatezza, nelle ore successive, e poi anche il giorno dopo vedi queste nuvole che ovviamente false, create da queste scie, che pian piano si vanno a striare e occupano pian piano tutto il nostro spazio aereo. Io capisco benissimo lo scetticismo della gente. Certo. Io le prime volte che mi sono occupato di scie chimiche, cioè nei primi giorni in cui riflettevo su questa questione, capire se e fino a che punto fosse vera, giustamente ho controllato il cielo il più spesso possibile, e proprio questo dà la certezza, perché quando io guardo il cielo ogni 10 minuti e vedo che in certi giorni sono le scie a coprire il sole e non le nuvole, mentre il servizio meteo dice sono velature nuvolose, mi dà la certezza che c'è un'operazione segreta, che qualcuno cerca di tenere segreta, in cui sono coinvolti i militari che gestiscono i servizi meteorologici. Poi personalmente io ho visto un aereo che volava quasi raso terra, voglio dire, volava sicuramente a molto meno di 1000 chilometri, e che volava esattamente sopra la mia scuola, esattamente 5 minuti dopo che era suonata la campana di fine delle lezioni, cioè è passato appena tutti gli studenti uscivano nell'atrio, c'erano 500 persone tra studenti e docenti, e questo aereo con un'enorme scia bianca dietro che sembrava fare il pelo al tetto. Nessun meteorologo si permetterebbe di dire che quella a quell'altezza può essere una scia di condensa. Io ho visto questo aereo che cospargeva appositamente di prodotti chimici, di particolato metallico, chissà quali altre schifezze, miratamente su una zona densamente popolata, cioè 500 persone che uscivano da scuola. Quando io ho visto questo, ho capito subito che le scie chimiche non sono solo uno strumento di controllo del clima, perché è evidente, l'uso, me l'hanno raccontato anche altre tre persone con cui sono in contatto, l'uso proprio sopra ospedali, sopra scuole, sopra università. Ecco, se uno controlla ogni 5-10 minuti il cielo e vede che perfino di notte, quando gli aerei non ci dovrebbero quasi essere, si forma a volte, si vede benissimo con la luna piena, una cappa che copre il cielo fatta da scie degli aerei, si resta stupiti, interdetti. Come diceva Rosario, si parla di global warming, effetto serra, ma noi vediamo questo effetto serra creato dalle scie degli aerei che di notte impediscono al calore della terra di fuoriuscire nell'atmosfera. Quindi infatti c'è un effetto serra artificiale che è visibile solo se noi, invece di guardare lo schermo del computer, invece di guardare i giornali, guardiamo il cielo, possibilmente a distanza ravvicinata ogni 10-15 minuti, anche di notte, scopriamo delle cose che alla fine ci costringono a ragionare in maniera diversa su tutto il resto. Tornando alla manipolazione, anche al controllo ossessivo di ogni persona, dico, è recentissima la trovata di una ditta inglese sui nuovi lampioni intelligenti che hanno incorporata una telecamera, un microfono e un trasmettitore wifi. Insomma, ormai ci troviamo veramente in un sistema orwelliano, il mondo descritto da Orwell nei suoi romanzi ce l'abbiamo ormai a portata di mano. Vero. Guardare, leggere quei libri e poi confrontarli con questa realtà dovrebbe anche questo far riflettere. Il problema è superare la paura. È normale, è umano che la gente non voglia, non voglio accettare un mondo così brutto, rinuncia. non voglio accettare, hai detto bene Corrado. Senti, abbiamo giusto qualche secondo di pubblicità, ritorniamo tra un pochino e poi andiamo a concludere perché le 20:48 ci avviamo verso la chiusura, quindi restate con noi. Allora 20:52 andiamo a concludere con Corrado Penna, con questo sistema ARP, ci modificano, ci controllano, ci provocano un po' i disastri, quelli che crediamo naturali, quelli provocati dalla natura invece non sono provocati dalla mano dell'uomo, e rivelazioni veramente importanti questa sera, ma andiamo a concludere Corrado, allora a te. Allora io volevo concludere ricordando una cosa che ha detto Rosario, cioè che la NASA ha pubblicato uno studio secondo il quale certe alterazioni dell'ionosfera possono permettere di prevedere i terremoti. Ora, come mai non lo hanno fatto? Cioè, se loro sanno, hanno visto statisticamente che certe alterazioni dell'ionosfera avvengono sistematicamente prima di forti terremoti, com'è che non ci avvisano? Allora, hanno studiato questo mezzo per avvertire la popolazione che ci sarà nei prossimi giorni un terremoto, non lo usano. Sono dichiarazioni sconvolgenti, solo il fatto che dicono che c'è un mezzo per prevedere i terremoti e non lo usano, perché praticamente gli ultimi disastrosi terremoti non sono stati preavvisati. Ecco, infatti ti volevo chiedere, quindi nemmeno in Giappone c'è stato un preavviso, vero? Lì sono molto tecnologici, riescono a prevederlo 2 ore prima. Ci sono questi studi dicendo che alla fine queste alterazioni ionosferiche avvengono regolarmente prima dei grandi terremoti, però com'è che... quando sono successi gli ultimi terremoti non ci hanno mai avvisato, non hanno mai avvisato nessuno, insomma, è una cosa che veramente suona strana, e quindi questo a me viene sospetto che in realtà loro alterino la ionosfera per poi creare i terremoti, se non ci avvisano, cioè se non fanno niente per avvisarci, vuol dire, insomma, non avvisare di un terremoto e crearlo è certo differente, però sono due cose ugualmente terribili. Io volevo dire solo una cosa ancora, sì. Ci sono ormai dei brevetti anche di manipolazione climatica e delle dichiarazioni di intento di manipolazione climatica che però sembrano nascondere una manipolazione mentale, e tutto questo è legato sempre anche al sistema ARP e alle scie chimiche. E voglio dire, nel documento Possedere il tempo entro il 2025, Owning the Weather in inglese, uno studio dell'esercito statunitense, si prevedono degli schermi ionosferici artificiali che chiaramente si possono realizzare solo spruzzando del particolato metallico a una quota di 3-4 km. Si prevedono, appunto è scritto anche nel documento, degli aerei per il rilascio di queste cose. Si prevede la creazione di nubi di nanosensori, cioè ufficialmente per controllare il tempo, però nubi di nanosensori significa strutture molto più piccole del millimetro, microscopiche sulla scala dei nanometri, che possono agire da sensori, quindi ricevere informazioni e mandare informazioni in noi tempo, denunciamo che in tempo reale si trovano questi strani filamenti, queste nanostrutture che sono legate a quanto pare al mondo di Morgellons e che sembra servono anche per dei progetti di manipolazione genetica e mentale. E dico, appunto, in questo documento viene detto che c'è questa intenzione di realizzare tutte queste cose. Le fanno veramente solo per controllare e manipolare il tempo. Dico, se, come diceva Rosario, mettiamo uno schermo riflettente a 2-3 km di altezza, può servire anche come un sistema di guida per le onde elettromagnetiche, che possono servire per manipolare il clima, possono servire per manipolare la mente. Sta alla gente pensare, cioè, decidere se sono solo tutti brevetti che esistono, potenzialità che esistono ma che non verranno usati mai, o se, visto che ci sono e visto che ci troviamo governati da persone che fanno soffrire di fame 800 milioni di esseri umani, perché questa è la situazione, non ce lo dobbiamo dimenticare in che mondo viviamo. Da quando sono nato sento dire che si devono impegnare per far sì che la fame del mondo scompaia, ma ci troviamo sempre a quella cifra di circa 800 milioni che sono sulla soglia della malnutrizione e che rischiano di morire di fame. Ecco, non posso credere che un pianeta che manda le sonde su Marte non riesca a risolvere il problema della sottoalimentazione, quando fra l'altro le risorse alimentari, se distribuite agli esseri umani piuttosto che agli animali da macello permetterebbero di nutrire tutti quanti. Quindi si tratta di decisioni politiche o di passarle veramente del business delle multinazionali che fanno sì che ci sia un problema terribile, 800 milioni che stanno per morire di fame. Infatti o di schiacciare sotto i trattori, sotto gli automezzi, migliaia di tonnellate di pomodori o che ne so di peschi o altro. Purtroppo sì, purtroppo è vero, è il male, non diciamo del secolo, perché si sbaglia quando dice il male del secolo, no, è il male di sempre, il male di quando l'uomo ha generato con la sua mente perfida il successo, quindi diciamo il successo però sotto un'altra forma, quella che noi denunciamo, è vero Corrado? Sì, probabilmente vedere queste cose, rendersi conto che non solo sono possibili, ma che si stanno facendo, stiamo parlando appunto di creare terremoti e manipolare elementi con scie chimiche e riscaldatori ionosferici del tipo di quelli di Harp, significa anche a quel punto rileggere la storia e rivedere tutto quello che è successo nel passato con un'altra ottica. È possibile che dopo 5.000 anni di evoluzione ancora l'uomo si faccia la guerra? È possibile che due nazioni confinanti, dopo essersi dissanguate economicamente, aver visto generazioni falcidiate dalla guerra, continuino a combattersi? Cioè, è possibile che non sappiano fare i nostri leader il ragionamento semplice che non facendo la guerra si guadagna anche economicamente? Ma magari Corrado, anche guerre programmate tra gli stessi leader di nazioni. Una volta si perde, una volta si vince, una volta si sì, perde. Una volta la fedura, una volta fare guerre per 1.000 anni significa perdere sicuramente. Significa anche le perdite sono molto più guadagni. La perdita del genere umano, questa è indiscussa, però per loro interessa soltanto la sede di potere, il controllo sull'umanità e anche quella fetta di terrore che poi noi umani così, viene prodotta. È un guadagno che non è neanche del governo o di una certa fetta di persone sì, particolarmente agiate, ma è un guadagno proprio circoscritto al sistema bancario, ad alcune perfetto, grandi aziende, ed è poi probabilmente collegato a una modifica degli assetti di potere che sta portando piano piano verso la unificazione di grandi aree, la grande Europa che tra poco sostituirà gli stati nazionali a quanto pare, sì, perché Monti ha detto dobbiamo rinunciare alla sovranità nazionale per risolvere il problema economico. E questo è un progetto denunciato da alcuni scrittori già 20 o 30 anni fa, questo nuovo ordine mondiale. Io all'inizio, quando ho letto queste cose, ci credevo tanto quanto, però curioso come sono, ho detto vediamo se poi si realizza. Ecco, adesso lo sto vedendo realizzato. E l'Inghilterra come si pone, proprio velocissimamente, come si pone dinanzi a questo nuovo ordine mondiale, l'Inghilterra? Questa è una domanda che mi trova spiazzato. Al momento vedo che sembra appunto tirarsi fuori, infatti. Però non si sa bene ancora quale sarà il ruolo, perché da quello che vedo io è tutta una pantomima, cioè è tutta un'opera di teatro della quale noi siamo spettatori, potenze contrapposte che poi in realtà condividono le stesse scelte politiche, che utilizzano gli stessi aerei per spruzzare le stesse scie chimiche, che manipolano le menti dei cittadini alla stessa maniera. È difficile, dico, notando il fenomeno delle scie chimiche, vedendo come dalle satellitari oppure dalle foto, queste cose le vediamo a Mosca, come a Pechino, come a New York, come a Roma, è difficile pensare che la contrapposizione che noi vediamo sia reale. Infatti. Così come è difficile pensare che e D'Alema siano veramente su fronti opposti, dato che si trovano all'interno dello stesso organismo che si chiama CFR europeo, un organismo appunto nel quale troviamo finanzieri, economisti, leader di partito di destra e di sinistra, indifferentemente, che si siedono al tavolo, discutono, programmano le sorti dell'Italia e poi davanti alle telecamere in Parlamento litigano. Quello che succede, secondo me, in piccolo in Italia, succede anche in grande fra le varie nazioni. È sì, un teatro. È tutta una finta. È un teatro, perché poi com'è possibile che, dico, se creiamo alle scie chimiche è automatico. Lo stesso particolato, gli stessi congegni, le stesse cose, le stesse scie chimiche spruzzate in tutto il mondo, possiamo davvero credere che non ci sia sotto un legame, una cospirazione, possiamo anche dirla questa parola, fra i vari governi che collaborano non certo per fini bonari, ma per giusto, schiacciare la popolazione umana. Giusto. E a questo punto, qualunque sia la scelta momentanea del leader dell'Inghilterra o della Francia o dell'Italia, io la vedo come appunto una pantomima, perché bisogna anche far credere al popolo che ci siano degli eventi politici da seguire, piuttosto che guardare dietro quegli eventi. Insomma, per me è tutto spettacolo. Beh, e allora vedremo, probabilmente l'Inghilterra avrà un ruolo guida, anche perché la regina d'Inghilterra, a quanto pare, è una delle persone più importanti a livello della massoneria scozzese, pare che sia anche il capo supremo addirittura. Ah, ecco, quindi questo forse significa qualcosa. C'ha le mani in pasta anche lei. Beh, allora dobbiamo soltanto invitare le persone in ascolto a riflettere e a prender parte in modo attivo a questi discorsi, anche a questi programmi che il mercoledì Radio MPA, insieme a Lo Sai, tiene e mette sul banco. Quindi invitiamo ogni mercoledì, quest'oggi eccezionalmente venerdì, l'abbiamo prodotto questo programma sul sistema ARP e che dire, Corrado Penna ci ha fatto ci ha aiutato tantissimo, ci ha detto tante cose, esattamente come ci ha detto anche Rosario prima, Denise ci ha fatto da supporto, insomma c'è tutto un organigramma che è alle spalle, lavora, e vedete signori, questa informazione è quella seria, non è un'informazione manipolata assolutamente, beh, ed è tutto poi attendibile anche perché è dimostrabile. Nel frattempo noi diamo appuntamento a te, Corrado, un grazie, ma agli amici in ascolto diamo appuntamento a mercoledì prossimo, quindi grazie ancora a Corrado Penna. Ciao, alla prossima, e un saluto anche alla nostra Denise che ci ha fatto compagnia questa sera. Ciao Marco. Bene, un saluto a tutti gli amici di Lo Sai, l'appuntamento a mercoledì prossimo. Ciao a tutti!